Un'altra cosa, noi pensiamo questo, mi sembra una cosa abbastanza semplice. Quando le persone seguono i piaceri edonistici, mangiare a dismisura, che poi fanno male, tra l'altro, c'è sempre e tutte cose di questo tipo, abbiamo questa convinzione che uno fa questo perché gli manca la gioia dell'essere, cioè, esatto, che è vuoto, e quindi deve riempire il vuoto. Sono pienamente d'accordo. E quindi non è cosa... si riempie di qualcosa, compensa, compensa con riempire. E oggi credo che una delle ragioni per cui è così difficile portare avanti un discorso che è così ovvio, cioè così radicale, e ma perché c'è una pubblicità che dal mattino alla sera insegna il contrario, continuamente il contrario, cioè subdola, perché scambia l'esigenza con un piacere, capito? Ti fa cadere nell'equivoco dell'esigenza che è riguardo all'essere, in fondo al piacere, al bisogno, in fondo, al piacere o al bisogno. E questo è qui, e siccome la pubblicità è una propaganda continua, attraversa tutti, genera un'ignoranza radicale. E questo si può fare per i ragazzi giovani? L'unica cosa che io, l'unica cosa un pochino che io posso fare con i bambini, più che con i giovani, che è più difficile, è non solo rispondere ai loro perché, ma fargli domandargli io tanti perché io stessa. Cioè, il modo di. Loro hanno già tutta una serie di perché, non solo rispondergli, ne aggiungerne altri. Così si abituano. Ecco, e sulle cose, secondo te perché c'è questo? Cioè, tentare di sollecitare la loro espressione anche sui problemi che non hanno ancora incontrato. Questo è per dare un pochino non solo il senso critico, ma il senso di sé. Il senso di sé, che poi li è quello che li guiderà. Sì, li preserva un pochino da tutte le pubblicità e da tutta questa società che ti dice come essere fino. Perché ciò che può renderli responsabili. Li rende responsabili. C'è questo. E coi giovani è difficile, devo dire la verità, che anche per me è molto difficile parlare con i giovani. Con i bambini meglio, cioè, perché questo l'ho sempre fatto un po', che poi è l'unica maniera di salvaguardarli un po'. Certo. Con i giovani devo confessare che anch'io non so cosa fare. Non so cosa fare perché non hanno prospettive di futuro. Questi li rende proprio ripiegati su di loro. Volevo farti una domanda, perché effettivamente tu hai avuto una grande grazia, e io penso che il centro della tua esperienza sia che quell'esperienza che tu hai vissuto ha fatto andare via la paura. Questo. E quello è il grande tema, perché il punto è quello che ci tiene ancorate il condizionamento, cioè io mi faccio condizionare, mi attacco, magari perché la Chiesa siamo tutti noi, no? E quindi siamo tutti noi. Il problema è che c'è chi ha paura e chi non ha paura. Se tu lasci andare la paura, ti liberi e ti apre una visione più ampia. Invece alcune persone io conosco sono un po' più attaccate a quella dottrina lì. Certamente gli esseri umani hanno molto paura. Questa è una caratteristica, c'è paura. Ma se noi vogliamo fare un'educazione nuova, bisogna più che togliere le paure, bisogna fare qualcosa di positivo, riscoprire le nostre possibilità, il valore dell'essere. Io non ho trovato altro che l'esigenza. Cioè, ho pensato tutto quello che potevo pensare. Ma cioè, l'originalità dell'essere umano, secondo me, è la sua verginità, io la chiamo così, c'è ancora nell'esigenza di essere. E di essere più di quello che uno è. Certo. Che è la sua trascendenza, certo. Uno magari lo vive solo così, poi tu devi dargli parole per dirgli che cos'è. Però l'esigenza di essere in un mondo d'amore, in un mondo di felicità, questa c'è ancora. C'è in tutti. E questo è il punto di partenza. Io non ne vedo altro, perché di lì parti, di lì recuperi tutto, anche la storia dell'umanità, la cultura, tutto. Ma una volta che l'essere umano riesce a fondarsi in se stesso, cioè nella sua esigenza, allora lì va via anche la paura. Ecco, che ti va via, cioè a fondarsi dice, tu lo senti come esigenza, nessuno te lo dà. O tu lo crei, quello che senti che andrebbe bene per te perché lo senti, questa è l'unica cosa. Il tuo punto di partenza è sentire quello che potrebbe andare bene per te, che potrebbe, non che sei, che potrebbe andare bene per te. Bene, io ti posso dire che tu sei capace di crearlo quello. Ecco, e questo è il tuo compito. Quindi lì ti fondi un po' in te stesso, nelle tue esigenze ti fondi. E pensi che è esattamente ripetere quello che io ho conosciuto di Maria. Eh sì, esatto. Ecco. Eh sì. Questo. Allora poi recuperi tutto, ti recuperi tutto il valore della storia, della cultura, perché li vedi come mezzi, c'è tutta la storia come processo di umanizzazione, la cultura come tutta la creatività degli esseri umani per dare gli uni agli altri, alle altre generazioni, il punto di arrivo. Però, cioè, lo prendi tutto come dono e come accelerazione, se non hai questo è tutto condizionamento.